Vacanza di lago. Capitolo nono. Il nonno l'aveva preceduta di poco. Aveva ancora l'asciugamano di spugna avvolto tra le mani. Si affacciò in cucina per controllare se il pane messo nel forno fosse già pronto, ignorando del tutto il suo arrivo. Martini salutò entrambi, ma non ottenne alcuna risposta. Il suo posto a tavola non era neanche stato apparecchiato. In un primo momento la ragazza sospettò che uno di loro due avesse deciso di non cenare. I volti dei nonni erano cambiati e afflitti da una calma anomala e indifferente, le schiene curve come vecchi monaci sui pasti fumanti. La ragazza allora rientrò dentro, nella sua piccola stanza, e prese a sedersi ai bordi del letto, con gli occhi perduti verso le tracce sfocate di quel solito scorcio di paesaggio, ancora limpido e visibile come tutte le sere a quell'ora. E in quella stessa ora della sera Martine era già esausta, sfinita. Si sentiva lo stomaco chiuso, come serrato da una morsa di lupo che le impedisse di provare la sola idea della fame. Il suo pensiero ritornava al progetto di quell'acquisto della bicicletta al titanio, quella grigia e bianca, e anche ad Edoardo, alla possibilità di quella svolta importante, che adesso invece diventava difficile anche solo da pianificare. Dalla cucina, oltre i rumori insistenti delle posate sui piatti e sulle bocche ormai già piene di cibo caldo, non trapelavano più parole umane, ma solo quel loro risucchio svogliato, in un crescendo di tempi lenti e imprecisi, della loro masticazione difettosa e ancora vorace, che procedeva severa e solitaria, a dispetto di quel suo lungo digiuno. Martina allora si distese, sfinita, sul letto, con il capo rivolto alla finestra, lo sguardo perso e sfinito. Un grosso uccello montano sfiorava l'acqua calma e appena rosata dall'oscurità del lago, per poi risalire in silenzio nella sommità della sua eleganza naturale e solitaria, verso il percorso muto e mirato dei suoi nidi di roccia, sconosciuti e lontani. Martina aveva appena chiuso gli occhi, stanca, quasi a tempo con l'incresparsi dell'acqua e lo schiudersi delle prime stelle ancora povere di una patina di luce, come piccole punte lontane di candelabri, quando di colpo si addormentò, come una morta nel sonno. Gli occhi di Martini si spalancarono all'improvviso, quando fuori si era fatto già buio. Era ancora tutta vestita e dalla finestra penetravano le sue narici aromi pungenti di erbe selvatiche, frusci lontani di una vita animale, odorosa, serpeggiante, nascosta, ma ancora pulsante, che si intensificava ancora con la vicinanza dell'acqua e nella sua grande ansia, adesso amplificata tutta da quella casa, ormai tutta spenta, come disabitata, che non sembrava nemmeno più respirare. Martina avvertiva solo la fame, che cominciava a premerle forte dalla testa, insieme al dolore di quella serata strana e violenta, spezzata quasi a dispetto alla sua difficile allegria. Dal bagno sentì scorrere dell'acqua. Nel silenzio della notte uscì piano dalla stanza. Il cielo spandeva riflessi confusi, screziato da un manto leggero di piccole nubi vicine. Martin si fermò a guardare quel tratto spezzato di bianco nel cielo, la finestra più piccola e più bassa del corridoio, poi proseguendo nel percorso silenzioso, cercando di fare del suo meglio per non farsi sentire. Dalla stanza da bagno ancora il rumore costante dell'acqua che scrosciava. Di fianco all'ingresso della cucina, le ombre tremanti di un grosso albero che si riflettevano sulle pareti interne dell'abitazione. Martine, spaventata dall'incedere di quel getto d'acqua ormai sempre più intenso e vicino, si fece avanti, affacciandosi con il capo tremante verso la porta, socchiusa, squarciando nei tempi della sua apertura un cono gelido di luce proveniente dal faretto schiacciato sul lavandino, che cominciava a dilagare, insinuandosi nel fondo di quella casa buia. oltre la cucina. Sua nonna Teresa era davanti allo specchio, con i capelli bianchi e grigi completamente sciolti e incredibilmente più lunghi di quanto Martin ricordasse. Non li aveva mai visti così lunghi. Sembravano sfiorarle la schiena e continuare ancora, quasi a crescerle a vista d'occhio, come i fili misteriosi di un cotone opaco e argentato, sfilanti dentro la geometria di una ragnatela di nodi minuti, ancora più lucidi sotto l'illuminazione diretta del piccolo faro. La nonna era ferma a specchiarsi e poi rimaneva calma, a specchiarsi ancora più spettrale, più pallida di un sereno, davanti all'acqua grigia che scorreva, proseguendo nel movimento impercettibile delle labbra strette. Adesso il volto dell'anziana sembrava privo dei tratti familiari. Muoveva il labbro inferiore, il più sottile, con una gentilezza insolita, infantile. L'acqua scrosciava, adesso costante. Martin ritrasse di colpo il capo all'interno, spaventata, ma fu la nonna a scorgerla per tempo, con un movimento preciso e fermo della testa, che si girò in uno scatto insonorizzato, con la stessa sofficità predatoria di un grosso volatile notturno. I loro occhi, fermandosi l'uno nell'altro, senza tempo né fiato, nell'ansia metallica e urticante di quell'attesa infinita. Martin era sempre più spaventata, raggelata dal terrore. Le sue parole di grida erano tutte inchiodate e sepolte al palato. La nonna guardava la nipote con uno sguardo diverso, senza lasciarla un attimo libera dalla morsa dei suoi occhi. Poi, con la stessa naturalezza, aprì la bocca. Un ammasso di lunghi aghi le copriva tutti i denti, lasciandole coperta quasi del tutto la lingua. Sembravano conficcati a forza. Lo sguardo dell'anziana adesso risaliva e rivelava un dolore spirituale interno più che fisico. Continuava l'imperturbabile silenzio, come a rimproverare ancora Martin di quella silente intrusione, con la profondità grigia e severa degli occhi, adesso come cuspidi corvine e penetranti, a martellarla nelle sue soglie percettive più interne e per espletare forse il rituale di quel castigo terribile ancora così oscuro che in quel momento le stava appena infliggendo, con la sua fissità vernica, vorace, dentro la sua paura. Martin rimase pietrificata. La nonna si girò e cominciò a sputare tutti gli aghi nel lavandino, insieme a grosse masse di capelli bianchi che sembravano intrappolati da secoli nel suo petto, come ciuffi lanosi trattenuti dentro antiche forcine, accompagnati dal tintinnio del suo vomito metallico, infernale. Scusciavano via a fiumi come organismi appuntiti e sfilanti nel getto furioso di una rapida, dotati di una propria raccapricciante autonomia motoria. In quell'espletarsi così oscuro e lucente, Martin fu presa da un velo cupo improvviso negli occhi, nell'animo, nel respiro e nella mente e svenne di colpo. Al suo risveglio Martin si ritrovò nel suo letto, con le coperte rimboccate fino al naso. Ormai non aveva più dubbi. Quelle immagini potevano essere giustificate solo da un turbine oscuro di graduale e crescente follia, dalla quale forse non sarebbe mai più uscita. La luce del mattino era ancora velata da quel grigiore soffuso, che non marcava ancora i tratti del tempo di pioggia, ma non svelava nemmeno quel conforto nitido di paesaggio, dalle sagome gotiche del lago alle ultime case nel silenzio tra gli alberi ancora accese poco prima dell'alba. La luce penetrava nella stanza con una lentezza metodica, concentrata. Gli oggetti della camera prendevano e mutavano sui occhi appannati in mille forme diverse, prima di ricomporsi nelle stesse prospettive regolari e simmetriche della sera precedente. Martina aveva gli occhi stanchi, ancora intrisi di quello spavento costante, incancellabile, e ormai non misurando più il tempo trascorso tra i suoi risvegli confusi e il suo forzato abbandono a quel riposo fittizio, ancora troppo ansioso e viscoso di profonde e spinose emicranie. Adesso dov'era il suo reale, si chiedeva. Sperava solo di trovarvi una risposta chiara, che forse solo il coraggio di raccontare l'avrebbe concesso di ottenere, nel tempo. Intanto la cucina cominciava già a rianimarsi e a ravvivarsi dei rumori continui e svariati degli utensili già caldi di fiamma. La nonna che preparava il tè, con i capelli composti e ben legati alla nuca. Sembrava distesa e serena, nella calma religiosa di inizio giornata, lontana dal fantasma raggelante della sua notturna gemella. Martina si avvicinò per baciarla, quando lei era ancora di spalle. La nonna girò il palmo della mano ancora libera e le sfiorò con grande delicatezza una guancia. Poi si girò e le sorrise. «Come hai dormito, colombina mia?» Martina le rispose, ma scoppiò improvvisamente in lacrime, coprendosi il volto bagnato sulla spalla minuta della vecchina, che era ancora in vestaglia, avvolta dal sonno e dalla dolcezza di quei risvegli estivi e rallentati. Il nonno sopraggiunse a distanza di qualche minuto e, dopo aver esitato per un po', si accostò con lentezza alla ragazza, che adesso era seduta a tavola. «Vuoi venire a fare una passeggiata, Martin?» «Sì, nonno, e poi, insomma, che cosa c'è? Volevo dirvi che vi voglio davvero bene. Forse a modo mio, ma ve ne voglio davvero un mondo. E mi dispiace davvero di quello che è successo. Credetemi, piccola. Ma noi lo sappiamo bene tutto questo. Anche noi te ne vogliamo. È solo che a volte ti vorremmo un po' più responsabile, più matura per la tua età. Noi lo diciamo soprattutto per te, per la tua vita», le disse in un tono di voce bassa e pacata Teresa. «Vedi, Martin, una nipote è ancora qualcosa di più. È un affetto del tutto diverso da tutti gli altri che hai incontrato. Perché noi alla fine diventiamo il ramo più vecchio dell'albero, a cui tu puoi ancora appoggiarti. Ma anche quello più alto, quello che ti fa guardare il mare e anche le colline azzurre oltre il lungolago, e gli uccelli e le case quando la sera si accendono tutte insieme dai lumi più animati e che ti mettono paura per le ombre lunghe. Te ne ricordi, piccola Martina? Ma questo ramo però è anche tanto sottile, allora scricchiola di più al contatto con la tua vita che corre senza guardare davanti, e allora rischia di ferirci insieme a te. Ora riesci a seguirmi, tesoro? Ma io non volevo farvi del male. Vorrei almeno riuscire a spiegarmi meglio, che non ne ho avuto nemmeno il tempo. Noi questo lo sappiamo bene. È solo che ieri sera ci hai lasciati entrambi tanto perplessi, anche perché hai rovinato quella bellissima sorpresa che ti era stata preparata», diceva la nonna, continuando ad abbracciarla, avendo ormai posato te e Teiera sul marmo, e stringendole adesso il capo spettinato con tutte e due le mani. «Ma qual era questa sorpresa? Me la dite allora?» «Non so più che senso abbia adesso. Forse glielo vuoi dire tu, Alfio?» Il nonno si fece forza e guardò fisso un punto fermo della parete. Si arricciò la punta del naso con il dito indice, come preso da un forte e improvviso imbarazzo. «Ieri noi abbiamo sentito tuo padre, prima che tu tornassi. Ebbene, il nostro povero Victor avrebbe passato 3 giorni in profonda solitudine, in giro dai migliori lutai di Francia, della migliore Parigi. E dopo una lunga serie di ricerche e di contatti mirati, insomma, finalmente l'avrebbe trovato. E così lo ha comprato. Povero il nostro Victor. Ma comprato cosa?» Si guardarono sfiniti, con un'aria desolata e afflitta in quegli occhi già grigi e stanchi. Martino riusciva a capire, o forse non voleva riuscire ancora ad arrivarci. «Non hai ancora capito, Martin? Davvero?» le disse la nonna. «Potrebbe essere un regalo, un nuovo strumento». I due nonni a quelle sue parole sorrisero, con la stessa intensità, nello sguardo appena riaccesosi. «Tuo padre avrebbe rinunciato a qualsiasi cosa pur di vederti felice», continuò la nonna. «Questo violino che ha preso a Parigi è stato costruito da un grosso liutaio e dovrebbe avere delle caratteristiche di suono uniche, dedicate alla tua vita, capisci? Che grande peccato, proprio adesso. Il problema non era lo strumento, nonna, e voi lo sapete benissimo. E poi io non ho mai spiccato con la musica, perché adesso vogliamo fare finta che sia solo colpa dello strumento? Ma cosa c'entra? Quel regalo sarebbe servito a stimolarti in qualche modo. Non era mica una lampada magica, lo sappiamo bene. Ma almeno ti avrebbe concesso e concentrato su nuove possibilità, a nuove sonorità. Perché non vuoi arrivarci, maledetta ragazza? Tanto è inutile, Alfio, lascia perdere. Martino ormai ha deciso. Non ha nemmeno pensato alla spesa che si è dovuta sobbarcare il povero Victor. È solo un'ingrata e nient'altro. Questo non è vero. E poi pensate che io mi diverto allora, eh? Quando sei tornata ieri, eri così sorridente, quasi a dispetto per la decisione di mollare tutto. Ne stavi trionfando come una regina. Sembrava quasi che ti prendessi gioco del nostro amore per te, delle nostre apprensioni. E tutto questo non è giusto. Ero felice, ma volevo soltanto coinvolgervi, spiegarvi. Ma vi ripeto, non ne ho avuto il tempo. A chi vuoi incolpare di tutto questo, allora? Sentiamo un po'. Forse le nostre premure? Le nostre attenzioni saranno state eccessive. Avanti, Martin, parla, mi diceva Teresa. Che belle le vostre attenzioni. A lasciarmi senza cena, lasciamo perdere allora. Ripeti quello che hai detto, Martin. Ripetilo, disse il nonno con uno sguardo spettrale e vitreo, mentre si avvicinava minaccioso e scossando con forza rabbiosa una sedia che li divideva. Ho detto la verità. Ieri sera non ho cenato per colpa vostra. Allora lo vuoi proprio capire? Tu ieri sera hai cenato, è chiaro? Hai cenato con tutti noi. Non la mangio mica questa piccolina. In fondo voglio solo farle capire che la vita non può mai andare sempre nella sua direzione. D'ora in poi dovrà imparare a tenere conto anche delle esigenze degli altri. Non è vero, Martin? Poi gli prese la bocca in una mano e gliela deformò con una stretta, introducendole dentro tutte le sue grosse dita, oltre la barriera dei denti, quasi a ficcargliela in gola. Dimmi, ieri sera che cosa hai cenato? Avanti, Martin, sto aspettando. La mano continuava a premere sul labbro superiore, mentre Martino aveva gli occhi sbarrati e respirava a fatica. Allora, io sto ancora aspettando. La lingua! Cacciala con la bella lingua e dimmi tutto quello che hai mangiato! Ho mangiato tutto, lo giuro, non ricordo più, ma... E dimmi com'era la cena. Ti è piaciuta almeno? Adesso basta! La nonna scosse con violenza il braccio di Alfio dalla bocca spaventata e tremante di Martino, che cominciò a sputare della saliva a terra, abbassando la testa, dopo essersi inginocchiata, a tossire ripetutamente, con il volto proteso verso il bordo di una sedia storta che adesso tratteneva a sé, disperata, trattenendola su due soli piedi. Lasciala stare adesso. Penso che adesso abbia capito che non devi più raccontare bugie, non è vero? Le disse la nonna con il volto ancora spaventato da quella reazione incontrollata del marito e fingendo di ostentare una severità eccessiva, un po' artefatta e amplificata, recitata solo per accontentarlo. La guardò ancora chinata davanti a lei con uno sguardo severo e spiritato, che cercava di nascondere a tutti i costi l'ombra leggera di una pietà sfocata e trattenuta nei suoi riguardi. La sedia barcollò dalle sue mani e cadde a terra. Martina aveva le mani ancora sulla bocca dolorante e l'odore di acqua di colonia del nonno sulla lingua. Adesso le girava forte la testa. Rialzandosi a fatica, si fermò, appoggiandosi con la forza al bordo del tavolo vicino. Le tremavano le gambe e anche le braccia. Aveva solo voglia di pisciare e la testa bollente, quasi a scoppiarle. Ho capito tutto. Ma adesso scusatemi, vi prego di scusarmi. Avrò sicuramente dimenticato la cena di ieri. Forse perché ero troppo stanca. Avete ragione, va bene adesso così. Ma preoccupata di cosa, tesoro? Me lo spieghi almeno. Sei qui in questo posto meraviglioso e ti senti già stanca, ancora così giovane. Ma cosa vuoi mai inventarti ancora per addolorarci? Me lo spieghi una buona volta che cosa cerchi da tutti noi, dalla tua vita? Io non sto bene adesso, ecco, volevo dirvelo da prima, ma adesso forse è arrivato il momento adatto per parlartene. E che cosa avresti che ti fa stare tanto male, piccola? Le disse la nonna, con un tono strano e poco preoccupato. Che cosa ti affliggerebbe di così tanto grande? Forse il tuo egoismo? La tua irriconoscenza? O la tua incontentabilità? Vediamo un po'. Mi sto forse sbagliando? Ormai è tutto inutile, io sto solo finendo. I due anziani a quelle parole tacquero. Si guardarono. Poi Alfio si ritirò nella sua stanza. In quell'istante agli occhi di Martini si sgranava un quadro sereno, tipico di una qualsiasi mattinata delle sue vacanze di lago, dove regnava il nitore tipico di un cielo grande di metà estate, che arrivava fin dentro i fondi delle case e delle campagne, nei piccoli incavi dei corpi ancora umidi e rallentati dal caldo, sull'acqua celeste del suo piccolo mondo incantato e profondo di sortileggi, fino ai cristalli azzurri e lunari.